Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Ancora buongiorno all'avvocato Marco Mampieri e alla dottoressa Lucia Fusco, ve lo ripeto, logopedista e vicepresidente dell'associazione L'Aquilone ADAR, associazione dislessia adulti e ragazzi. Prego Marco. Buongiorno di nuovo Francesco. Questa mattina abbiamo voluto scegliere un tema importante da un punto di vista sociale, che è quello di trattare una materia che spesso viene lasciata un po' nel dimenticatoio, che è quella dei disturbi specifici dell'apprendimento. Lo abbiamo voluto fare ospitando in studio la vicepresidente dell'associazione L'Aquilone ADAR, la dottoressa Lucia Fusco, logopedista, che da tantissimi anni è impegnata non soltanto nella cura, perché Lucia, correggimi, anche tu sei dislessica adulta e quindi sei testimone e partecipe di quello che è tutta l'evoluzione che segue dalla legge 170 del 2010, i disturbi specifici dell'apprendimento. E quindi insieme a te questa mattina faremo una panoramica di quelle che sono le problematiche, ma anche le possibili soluzioni a questi disturbi che affliggono una quota cospicua, intorno al 3,9% della popolazione scolastica, e che la legge 170 del 2010 ha disciplinato e viene intitolata come nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, e quindi che per la prima volta nel nostro ordinamento riconosce appunto la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la disalculia quali disturbi specifici dell'apprendimento. Allora Lucia, benvenuta in trasmissione, ti chiedo appunto di parlarci di queste quattro figure che rappresentano i disturbi specifici dell'apprendimento. Allora, tecnicamente noi parliamo di DSA, disturbo specifico dell'apprendimento. Specifico significa che riguarda esclusivamente l'area dell'apprendimento, quindi non c'è un deficit cognitivo, non c'è un deficit sensoriale, non c'è un deficit ambientale. I quattro disturbi che rientrano nel DSA sono la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. La dislessia è una difficoltà, velocemente ovviamente, certo, perché la dislessia è una difficoltà ad automatizzare il meccanismo di lettura. Quindi per un dislessico ogni volta che legge è come se leggesse per la prima volta, non gli viene automatico. Stessa cosa per l'applicazione della regola ortografica, quindi il disortografico ha difficoltà ad applicare automaticamente la regola ortografica che però conosce. La disgrafia è una difficoltà fluidità della scrittura, quindi il bimbo disgrafico ha difficoltà a scrivere fluidamente utilizzando lo strumento grafico. La discalculia è una difficoltà nell'applicare in maniera automatica il ragionamento matematico, il calcolo matematico. Ha una difficoltà ad automatizzare l'applicazione benché conosca il ragionamento. Quindi da questa ricostruzione che tu ci hai appena fatta dei vari sintomi che caratterizzano questi disturbi, possiamo capire che si tratta, come recita anche l'articolo 1 della legge 170, questi disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, quindi questo differenzia la persona affetta da disturbo specifico dall'apprendimento da un handicap vero e proprio. È corretta questa distinzione? Assolutamente sì, tanto che effettivamente non si dice nemmeno è affetto da DSA, ma ha una caratteristica, cioè ha un DSA, un disturbo specifico dell'apprendimento, che non è assolutamente una disabilità. Il primo test che si fa per stabilire se un bambino è dislessico o è un DSA è il test cognitivo, e solo in presenza di un quoziente intellettivo normale male o superiore alla norma, come spesso capita, si può procedere con la somministrazione dei test, proprio perché ovviamente se si rientrasse in un quadro di deficit cognitivo si dovrebbe procedere con altri tipi di test, quindi lettura, scrittura, eccetera. Quindi all'interno di un contesto cognitivo adeguato, quindi normale o anche superiore alla media, si possono manifestare questi disturbi. Di conseguenza la legge è intervenuta proprio per garantire nell'ambito scolastico il diritto all'istruzione, favorire il successo scolastico, perché potrebbe essere un problema avere paragonato un ragazzo che non ha questa problematica con questa caratteristica, come meglio dicevi tu, con persone che invece normali. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali, che saranno conseguenze che potranno interessare i ragazzi anche in età adulta, perché la frustrazione di vedersi considerati magari diversi rispetto agli altri può cagionare nel lungo periodo sicuramente dei disagi relazionali ed emozionali, con delle conseguenze anche dal punto di vista psicologico. Quindi preparare però lo stesso anche gli insegnanti a sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai disturbi specifici dell'apprendimento, favorire, come dicevamo, la diagnosi precoce e quindi i percorsi didattici riabilitativi, perché quelli dovranno essere mirati in funzione anche della specificità e della caratteristica del bambino, perché come abbiamo detto, come hai accennato tu poc'anzi, i quattro disturbi specifici, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, hanno ovviamente delle caratteristiche diverse che debbono essere affrontati con strumenti diversi. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, però per far capire ai nostri radioascoltatori quali sono da un punto di vista normativo gli intenti del legislatore con la legge 170, e dal punto di vista poi strettamente terapeutico o quantomeno riabilitativo per la parte di cui ti occupi quotidianamente, per far capire poi quali sono gli strumenti che hanno a disposizione i ragazzi e le famiglie per poter affrontare questa caratteristica che riguarda le persone che hanno questi disturbi specifici. Quindi un altro intento della legge, e che secondo me è importante, è quello fondamentale di assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale, perché ovviamente il legislatore deve tendere e lo ha fatto magari con la legge 170, ha iniziato a farlo proprio per garantire parità di accesso a tutti i ragazzi, anche a coloro i quali oggi presentino queste caratteristiche che li fanno ricadere nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi questo un po' per fare una panoramica generale su quello che è il tema odierno della puntata, e che è un tema molto particolare, che riguarda, come dicevamo, una certa parte della popolazione scolastica, e che però poi diventa adulta, e di conseguenza è importante prevenire, e su questo vogliamo fare un focus questa mattina insieme a te, proprio per tracciare un pochettino quelli che possono essere i percorsi e gli strumenti che le persone e le famiglie hanno a disposizione per raggiungere una diagnosi puntuale ed efficace. E quindi ti chiedo, i DSA con l'introduzione della legge 170, come abbiamo detto, non rientrano più nell'ambito della disabilità, quindi che cosa possono fare per essere considerate persone come riconosce la stessa legge, normale, e come si devono sentire nel contesto ordinario di vita quotidiana? Allora, guarda, i bambini DSA non rientrano ovviamente nella disabilità, però hanno delle esigenze didattiche diverse rispetto ai bambini non DSA. Per cui è fondamentale, innanzitutto, come dicevi tu, avere una diagnosi precoce, perché avere una diagnosi precoce significa che il bambino già alla scuola elementare può essere messo in condizione di avere pari diritto allo studio come compagni. Considera che noi parliamo di bambini sempre molto intelligenti, quindi sono bambini che hanno una buona intelligenza ma non riescono a fare certe cose. Quindi, per esempio, nel caso di un bambino dislessico, è intelligente ma non riesce a leggere. Allora quel bambino a 7 anni, 8 anni si chiede perché avendo una buona intelligenza si fa delle domande: perché io non riesco a leggere, perché lui sì e io no. Allora, se l'insegnante non è preparata a questo, se l'insegnante non sa di che cosa stiamo parlando, può commettere involontariamente degli errori. Devi leggere, devi allenarti, devi insistere, oggi a casa non esci a giocare, devi leggere, devi fare tanto allenamento. La reiterazione del compito, cioè l'allenamento alla lettura, non porta il dislessico ad imparare a leggere, nel senso che non automatizza il meccanismo di lettura. Si devono fare altri percorsi. Nel frattempo, però, io come faccio a garantire a quel bambino l'apprendimento? Perché è vero che quel bambino non riesce a leggere, ma io devo fare in modo che lui in seconda, in terza, in quarta elementare apprenda. Lui va a scuola per imparare. Io devo fare in modo che lui impari. E lì vengono fuori ovviamente tutte le strategie, quelle di cui tu parlavi, gli strumenti che sono necessari. Per cui partiamo prima da una buona diagnosi, una diagnosi fatta per tempo. Quindi considera che un bambino DSA può essere già, più o meno avvertito alla scuola materna, nel senso che alla scuola materna si possono vedere i primi fattori di rischio, bambini che per esempio sono goffi nei movimenti, bambini che non amano colorare, bambini che non amano fare un certo tipo di gioco, bambini che hanno difficoltà a rispettare le regole. Quindi già alla scuola materna le insegnanti potrebbero rendersi conto che quel bambino può essere un bambino a rischio. All'ingresso alla scuola elementare, prima elementare, non c'è una persona più adatta dell'insegnante a capire che quel bambino può avere delle difficoltà. Quindi ti interrompo per lasciare poi spazio anche alla pubblicità. Abbiamo detto il primo filtro è sicuramente la scuola. Ne parliamo oggi nella trasmissione Agora in Onda, è una trasmissione di informazione giuridica, perché cerchiamo attraverso l'emittente radiofonica di far capire che anche chi è affetto da disturbi specifici dell'apprendimento deve essere tutelato, e soprattutto, e quindi investe la sfera giuridica oltre che quella sociale, proprio perché è importante che si capisca subito la diversità, le caratteristiche diverse che hanno i ragazzi, per poter garantire parità di accesso e dignità da parte delle persone che hanno questo disturbo. Eccoci, ancora buongiorno, nuova puntata di Agora in Onda. Stiamo parlando dei disturbi specifici dell'apprendimento. In studio con noi l'avvocato Marco Mampieri e la dottoressa Lucia Fusco, logopedista e vicepresidente dell'associazione L'Aquilone ADAR. Ancora buongiorno. Buongiorno Francesco. Dopo la pausa pubblicitaria riprendiamo con l'argomento di oggi. Ci stiamo occupando dei disturbi specifici dell'apprendimento. Nella parte introduttiva ho chiarito che questi disturbi sono stati regolati e disciplinati dalla legge 170 del 2010, proprio per favorire la diagnosi precoce in ambito scolastico e garantire quindi la possibilità agli studenti, ai ragazzi e alle ragazze di poter operare durante il loro percorso scolastico in condizioni di parità con gli altri studenti che non hanno queste caratteristiche similari alle loro, e quindi garantire appunto la possibilità agli studenti di effettuare un percorso scolastico soddisfacente nonostante abbiano questi disturbi specifici appunto dell'apprendimento, che possano influenzare l'andamento scolastico non per mancanza di capacità ma per difficoltà legate proprio alla corretta su questo mi aiuta la dottoressa Lucia Fusco, la corretta individuazione delle caratteristiche di ogni bambino, perché abbiamo detto dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia sono i disturbi specifici, i disturbi specifici dell'apprendimento. Allora, ti richiedo appunto, abbiamo detto che al termine della prima parte la scuola può essere l'elemento importante per l'individuazione di questi disturbi specifici, e soprattutto quando inizia anche la scuola cosiddetta elementare, no? La scuola elementare, quindi l'importanza del ruolo dell'insegnante per poter avere una diagnosi. Allora, prima del ruolo dell'insegnante, quando e dove può essere fatta la diagnosi per caratterizzare un disturbo specifico dell'apprendimento? Allora, diciamo che la prima segnalazione viene fatta a scuola, di solito, nel senso che l'insegnante, proprio perché magari ha conoscenza dei disturbi specifici dell'apprendimento, si rende conto che c'è qualcosa che non va e segnala alla famiglia. La famiglia in quel caso si deve rivolgere ai servizi territoriali, quindi ci sono le ASL di appartenenza, i centri convenzionati eventualmente, o anche le strutture ospedaliere, quindi nei reparti di neuropsichiatria, anche se questo nome ogni tanto spaventa le famiglie, ma non è così, perché effettivamente poi si fa la richiesta di valutazione degli apprendimenti, quindi il bambino viene sottoposto a dei test, come dicevo prima il primo test è il test cognitivo, dopodiché si fanno i test di lettura, scrittura, calcolo, comprensione del testo. Ecco, rifacciamo un passo indietro, perché abbiamo detto, e questo lo avevi già detto tu nella prima parte, ma lo è anche ne dispone anche la legge, non bisogna avere timore, perché le persone che hanno questa caratteristica di avere un disturbo specifico dell'apprendimento sono persone che hanno capacità cognitive adeguate, quindi normali o anche superiori alla norma, che però hanno questa difficoltà, per cui esatto. Come dicevi tu, nel momento della diagnosi in cui i ragazzi e le famiglie possono rivolgersi, devono avere la possibilità di trattare questa caratteristica esatto. Con tranquillità, perché è un percorso che va fatto insieme alle strutture pubbliche anche private, anche quelle private convenzionate. Esatto, sono loro che rilasciano la diagnosi e quindi poi la famiglia si trova in possesso di un documento dove c'è una descrizione esatta del funzionamento cognitivo del proprio bambino, e quindi la diagnosi ci dice esattamente anche di quante deviazioni standard per esempio c'è un bambino. Quindi non so, dalla diagnosi si può evincere che un bambino magari legge correttamente. Quindi, sai, a volte si sente l'insegnante che dice: è dislessico, ma come, legge bene? Quel bambino è DSA, legge bene, ma per esempio potrebbe avere un deficit di comprensione del testo. Quindi, come mi rispose tempo fa una delle mie bambine, una delle mie ragazze, disse: sì, lesse tutto il testo correttamente. Io le chiesi: tu che, allora che cosa hai letto? E lei mi rispose: io o leggo o capisco. Quindi. E lei aveva un deficit di comprensione del testo. Questo è importante perché l'insegnante, nel vedere che il bimbo legge, può pensare che non abbia una difficoltà di apprendimento, che non sia dislessico. Non è dislessico tecnicamente nella lettura, ma è un bambino che può avere un disturbo di comprensione del testo. Quindi la diagnosi serve al terapista per fare un certo tipo di progetto riabilitativo, ma serve anche alla scuola per capire cosa aspettarsi da questo bambino. Quel bambino può leggere, ma può non comprendere ciò che legge. Quindi in quel caso è importante che l'insegnante sappia che quel bambino, anche se ha letto, non sta facendo finta di non aver capito, oppure non ha letto pensando ad altro, ha un disturbo di comprensione del testo. Ecco perché è importante che gli insegnanti abbiano una diagnosi fatta bene. Quindi su questo però aggiungo che il ruolo della scuola è un ruolo fondamentale. Fondamentale, assolutamente. La scuola considera che l'insegnante è la prima persona che si rende conto che c'è il disturbo, che c'è la difficoltà di apprendimento. L'insegnante è la prima persona che può fare la segnalazione. E l'insegnante è anche la persona che gratifica il bambino. La mamma può dire al bambino 100 volte: amore della mamma, sei bravissimo. La logopedista può spiegare al bambino: guarda che tu hai questo funzionamento, fai così, fai così. Il bambino vuole la gratificazione da parte dell'insegnante. Il bambino si aspetta il bravo dalla maestra. Il bambino vuole che sia la maestra a riconoscere. Quindi un corretto rapporto con l'insegnante è fondamentale perché ci possa essere una corretta corrispondenza tra le esigenze terapeutiche da un punto di vista riabilitative e cognitive dell'alunno e però la gratificazione personale da parte dell'insegnante, che incide sulla sfera emotiva e relazionale del bambino. Assolutamente, se il bambino si sente riconosciuto anche con queste caratteristiche, il bambino non esita a dire alla maestra: guarda maestra, io questo non l'ho capito, me lo puoi leggere oppure lo posso rileggere. Se il bambino teme di essere giudicato dalla maestra, e quindi se adesso glielo chiedo magari la maestra pensa che non avevo voglia prima di farlo, no? Il bambino si irrigidisce, non si manifesta per quello che è. Io tante volte i miei ragazzi, quando mi dicono: Lucia, sai, la prof ha detto che devo fare questo lavoro, come faccio, come lo posso fare? Io a loro spiego: parla con l'insegnante, dici: guarda prof, io questo lavoro lo so fare in questo modo, secondo te può andare bene? L'insegnante apprezza, vede tante cose, vede che sei interessato a fare il lavoro, vede che hai un tuo modo di fare questo lavoro e vede che tu hai voglia di lavorare soprattutto, e quindi non penserà mai che sei uno sfaticato. E poi magari l'insegnante si può rendere conto che proponendole tu un modo diverso di fare quel lavoro, l'insegnante avrà modo di conoscere un secondo modo per fare quel lavoro. Immagino la difficoltà in ambito pratico nel saper riconoscere e individuare da parte dell'insegnante questi disturbi, certo, queste caratteristiche che hanno i loro alunni, visto che non è una percentuale poi così bassa, cioè è una percentuale bassa in valore assoluto, ma può capitare, è un fenomeno che negli ultimi anni sta riscontrando comunque maggiore più riconoscimento, ma soprattutto ci sono dei ragazzi che hanno questo problema, ragazzi e dei ragazzi che hanno questo problema, quindi non è un fenomeno isolato, ma è un fenomeno comune. E quindi immagino che dal 2010, anno di pubblicazione di entrata in vigore della legge, ad oggi qualcosa sia cambiato anche nella cultura scolastica nel mondo delle insegnanti, perché magari posso immaginare che all'inizio ci fosse anche un rifiuto da questo punto di vista, una difficoltà nel capire che quel ragazzo o quella ragazza era aveva questa caratteristica del disturbo specifico dell'apprendimento. Certo, all'inizio, sai, quando una maestra vede che un bambino è molto intelligente ma non riesce a fare cose che per lei sono semplici, ci si rigidisce, allora non lo vuoi fare, allora non ne hai voglia, dovrebbero essere un po' più severi a casa con te. L'entrata in vigore della legge, noi avevamo già una nota precedente, che è la nota ministeriale 4099 il 5 ottobre del 2004, che era una sorta di riassunto della legge, però in quanto nota ministeriale non è stata molto presa in considerazione. L'entrata in vigore della legge ha scaturito dei fenomeni particolari. Per alcuni insegnanti è stata come un sollievo, no? Perché dice, ok, possiamo. Ora so a cosa fare riferimento. Devo dirsi che per alcuni insegnanti è stato anche una sorta di complicazione del lavoro da fare, perché c'è stato detto adesso però devo cambiare tutto, devo modificare tutto quanto, io ho 25 bambini, ci sono tanti problemi, c'è il bambino sordo, c'è il bambino autistico, c'ho tante difficoltà, come faccio? Quindi c'è stata una sorta di rigidità da parte anche della classe insegnanti. Però devo dire, ormai sono passati quasi otto anni dalla legge, le scuole si sono adeguate molto bene, fanno corsi di formazione. Purtroppo la pecca è sempre quella che noi conosciamo: le scuole hanno pochissimi soldi e quindi fare anche corsi di formazione e aggiornamento diventa difficile, motivo per il quale è nata la nostra piccola associazione che si occupa esclusivamente in maniera gratuita di fare formazione, ecco, nelle scuole, perché ne hanno bisogno, cioè l'insegnante deve essere formato. Ecco, l'hai citata tu, te l'avrei chiesta io tra poco, parlaci allora dell'associazione L'Aquilone ADAR, che si occupa di dislessia e di problemi, di disturbi specifici dell'apprendimento, e che ruolo ha all'interno anche del panorama scolastico, chiamiamolo così. Allora, guarda, noi proprio una decina d'anni fa, 9 anni fa, un anno dopo la legge, ci rendemmo conto, insomma, che gli insegnanti, anche quelli dei bambini che io seguivo in terapia, avevano difficoltà perché avevano pochissima conoscenza, i soldi nelle scuole mancavano, fare formazione diventava difficile, quindi devo dire proprio su proposta di un gruppo di famiglie. Ecco, aggiungo, perché qualsiasi norma dello Stato oggi non impone oneri per la finanza pubblica, quindi è sempre difficile poter fare formazione senza metterci le risorse, ecco, quindi è nata anche l'esigenza associativa di famiglie. Infatti ci sono tantissime associazioni sul territorio nazionale che lavorano in maniera gratuita. Noi qui in zona all'epoca non ne avevamo e quindi devo dire proprio le famiglie si sono proposte. Considera che nell'associazione ci sono io e un'altra collega logopedista come tecnici, poi sono tutti genitori di ragazzi dislessici, molti dei quali loro stessi dislessici adulti con diagnosi. Quindi loro hanno deciso. Tu stessa sei... Io sono dislessica, assolutamente. Io ho un passato scolastico un po' complicato, nel senso che sono stata bocciata tante volte alle medie, alle superiori. Io ho abbandonato gli studi a 16 anni. Quindi questo per far capire la difficoltà per i ragazzi nel momento in cui non c'è una diagnosi, le difficoltà che si creano, che si vivono quotidianamente, il senso di frustrazione che può caratterizzare la persona. E soprattutto invece oggi Lucia è una logopedista, è una professionista affermata che con la sua professionalità mette a servizio delle persone che hanno lo stesso disagio, la stessa caratteristica, la propria professionalità per portare avanti la cultura, la formazione e soprattutto anche la parte professionale. Ma sai perché? Perché io sono cresciuta con questa frase, ripeto, io sono stata bocciata tante volte a scuola, alle medie, alle superiori, sono stata espulsa perché ho fatto una cosa che non si fa a scuola e quindi sono stata espulsa al terzo anno delle superiori, ho lasciato gli studi e sono andata a lavorare. Quando ti senti dire continuamente, signora, la bambina è tanto intelligente ma non si applica, allora io so adesso i bambini cosa vivono, io so i bambini che sensazione vivono, lo sento sulla pelle quello che loro stanno vivendo a scuola, e quindi questo mi porta a combattere con le famiglie e anche ad aiutare le scuole, perché lo scopo dell'associazione è aiutare le scuole. Noi siamo a disposizione delle scuole, qualsiasi scuola ci chiami, noi andiamo a fare corsi. Noi domani pomeriggio siamo a Napoli, in una scuola di Napoli che ci ha chiamato, noi viaggiamo a spese nostre e faremo un corso dalle 15 alle 19 domani pomeriggio in una scuola che ci ha chiamato, per cui noi abbiamo deciso, io ma anche i genitori dei bambini dislessici, a loro volta dislessici, di metterci a disposizione della scuola, dare una mano alla scuola, dare aiuto. Noi facciamo corsi anche sull'utilizzo del computer. noi mostriamo praticamente con i bambini come si usa il computer a scuola, il computer che è uno degli strumenti. Infatti, ecco, su questo quali sono, facciamo un passo indietro, qual è il piano, che cos'è e come si caratterizza il piano didattico personalizzato, perché poi questo ha riflessi anche nella copiosa giurisprudenza che ha interessato purtroppo tante persone che hanno dovuto ricorrere alla magistratura amministrativa a seguito di, come dicevi tu, di bocciature e quant'altro, sì, proprio perché il piano didattico personalizzato non è stato fatto in maniera puntuale o soprattutto non è stato rispettato o fatto sempre in maniera molto formale ma mai sull'esigenza dell'alunno o dell'alunna. Allora, guarda, la legge ha stabilito che si faccia il piano didattico personalizzato, PDP viene definito tecnicamente. Allora, il PDP è un contratto tra la scuola, la famiglia e il tecnico che segue il bambino, dove si mette per iscritto tutto ciò che è necessario per il bambino. Viene sottoscritto da tutti gli insegnanti, spesso anche dal dirigente scolastico, nel caso di alunni maggiorenni dallo studente maggiorenne, altrimenti dai genitori. A volte, in molti casi, lo firmo anche io, la scuola chiede anche la firma del tecnico. Il PDP è un contratto, quindi è un elenco di cose che la scuola mette in atto per fornire al bambino il pari diritto allo studio, esattamente come i compagni. Quindi quel bambino avrà la possibilità, non so, di utilizzare il computer, di fare le interrogazioni programmate, di avere una riduzione dei compiti a casa, di poter registrare le lezioni, che è fondamentale. Il problema, come dicevi tu, è che purtroppo è capitato che il PDP sia stato fatto troppo generico, magari non sulla specifica necessità del bambino, che sia stato fatto, firmato, ma poi magari non rispettato. E quindi in quel caso ovviamente c'è una problematica, nel senso che la famiglia deve poi fare la contestazione, perché quando l'insegnante firma il PDP ha firmato un contratto e quindi lo deve rispettare. Ecco, su questo si è innestata poi la giurisprudenza esatto, amministrativa, che ha più volte segnalato e redarguito con le pronunce giurisdizionali il comportamento non corretto da parte della scuola, dei consigli di istituto di classe o del piano fatto con i docenti. Ricordiamo che le ultime disposizioni sono quelle contenute, per quanto riguarda proprio i piani didattici personalizzati, nel decreto legislativo 62 del 2017, che stabilisce appunto quelli che sono, riprendendo un vecchio decreto ministeriale del 2011, quelle che sono le linee da seguire proprio per la redazione e lo sviluppo, esatto, del piano personalizzato. Però parliamo appunto all'interno del piano personalizzato di quali possono essere gli strumenti compensativi o le misure dispensative, esatto, che a favore degli studenti, perché proprio perché c'è questo disturbo dell'apprendimento, ci possono essere delle misure compensative o strumenti o misure dispensative, e su questo ti chiedo di illustrarcele, che possono essere messe a disposizione del ragazzo o della ragazza per favorire l'apprendimento. Allora, guarda, noi abbiamo strumenti dispensativi e strumenti compensativi. Gli strumenti dispensativi sono praticamente quelle attività dalle quali il bambino dislessico è dispensato. Un bambino dislessico non deve leggere a voce alta in classe. Un bambino DSA non deve copiare alla lavagna. Il fatto di guardare, decodificare e trasformare ciò che legge con difficoltà in testo scritto è molto difficile. Il bambino DSA è dispensato dall'interrogazione a sorpresa. Il bambino DSA è dispensato dallo studio quotidiano di tutte le materie. Quindi lui, come strumento compensativo, invece utilizza le interrogazioni programmate. Gli strumenti compensativi invece, per esempio, possono essere allora, in linea generale, il computer. In Italia abbiamo l'Associazione Italiana Dislessia, che fornisce libri digitali ai bambini, quindi considera che un bambino DSA ha un libro digitale, che è esattamente identico a quello quello cartaceo dei compagni, però ce l'ha sul computer. Molto spesso l'insegnante mi chiede: dottoressa, ma che differenza c'è se lo legge cartaceo con gli occhi o se lo legge sul computer? Allora io li sorprendo spiegando che sul computer non lo legge il bambino, lo legge il computer il libro, perché esistono tanti sintetizzatori vocali ce n'è uno che è fantastico, che si chiama Leggi per me, ideato da un insegnante tra l'altro, che gli legge tutto ciò che c'è sul libro. Quindi un bambino, i miei bambini tutti vanno a scuola con il loro computer, i libri digitali caricati sul computer, il sintetizzatore vocale, che è uno strumento compensativo, compensa la difficoltà di lettura, il registratore. Il bambino DSA è dispensato dal prendere appunti, perché o ascolta o scrive, quindi registra, come abbiamo fatto noi all'università. Quindi da questo punto di vista, per non creare, diciamo, abbiamo dato delle istruzioni importanti per far comprendere come esistano queste misure e questi strumenti, in questo caso anche l'utilizzo dei software e dei computer, che possono aiutare gli alunni nell'apprendimento, e questo uso degli strumenti può essere portato avanti anche in materia di esame, qualora però, come prevede appunto il decreto, il piano didattico personalizzato, ma anche le stesse disposizioni normative con il decreto legislativo 62 del 2017, qualora sia stato già utilizzato nell'ambito dell'anno scolastico, soltanto occasionalmente. Quindi è un utilizzo frequente che può essere adottato da parte dello studente durante tutto il percorso scolastico. Quindi questo è sicuramente un ausilio che la tecnologia ci mette a disposizione, mette a disposizione soprattutto delle persone che hanno queste caratteristiche, per aiutarli nel percorso di apprendimento e soprattutto evitare quel senso di frustrazione che tu ci raccontavi dalla tua esperienza personale, e che invece è importante, e quindi su questo è il tema della puntata odierna, proprio perché la possibilità di poter garantire parità di accesso alle persone, ai ragazzi e alle ragazze che hanno queste caratteristiche e quindi queste difficoltà nell'apprendimento, possono invece essere, sono importanti, e quindi la conoscenza è uno strumento fondamentale per poter far sì che ci sia questa parità di accesso e che si evitino problemi futuri e quel senso di frustrazione che tu stesso hai vissuto e che ci hai raccontato e descritto nella tua esperienza personale. Parlaci infine dello spettacolo che avete fatto come qui a Palestrina con l'associazione, proprio per dare anche un altro aspetto dell'attività che l'associazione L'Aquilone fa. Allora, noi con l'associazione Aquilone abbiamo deciso di invitare questo attore, Francesco Riva, che è un ragazzo dislessico di 24 anni che vive a Milano, e che, tu pensa, lui si è avvicinato al teatro perché la maestra di italiano, per fargli studiare storia, inscenava le battaglie, e quindi lui ha interpretato Napoleone, ha interpretato Garibaldi. Infatti lui nello spettacolo lo dice quando tu sei Napoleone poi non lo dimentichi, e lui si è appassionato al teatro grazie a questa maestra. E devo dire, è stato emozionante. Aquilone ha deciso di offrire anche a tutta la comunità questa possibilità, perché è stato uno spettacolo, devo dire, abbiamo avuto un grandissimo riscontro, perché il Teatro Principe era pieno. Abbiamo voluto che si parlasse di dislessia anche in teatro. Il teatro per antonomasia è il mondo della cultura. Il bambino dislessico di solito viene definito un bambino che studia poco, inizialmente ovviamente, prima della diagnosi. Quindi parlare di dislessia in teatro con un attore dislessico, poi se i bambini sono saliti sul palco, hanno avuto modo di confrontarsi con lui, i bambini del pubblico hanno fatto domande all'attore dislessico. Devo dire che per noi di Aquilone è stata una soddisfazione enorme, perché siamo riusciti a dare, secondo me, un servizio bellissimo, un'opportunità a tante famiglie che hanno avuto la possibilità, chi perché conosce la dislessia, chi perché non la conosceva ma ci si è avvicinato in qualche maniera. Devo dire che è stata una cosa molto bella. Avete fatto un evento pubblico per portare avanti il vostro ruolo di associazione, di sensibilizzazione verso le persone che hanno problemi, disturbi specifici dell'apprendimento. Se vuoi dare un indirizzo mail o a chi rivolgersi, così almeno siamo in chiusura di trasmissione. Allora, abbiamo il sito www.aquilone.com, abbiamo un blog, Aquilone Blogspot, oppure abbiamo la pagina Facebook. Ricordiamo che Aquilone però è scritto, È scritto Aquilone, si scrive con la C di casa, che è l'errore che fanno frequentemente bambini dislessici, e ha la N messa al contrario, però anche scrivendolo con la C di casa ma la N messa giusta ci trovano. Noi abbiamo un gruppo Facebook molto fornito, dove forniamo anche consulenze online. Ok, allora io ti ringrazio Lucia per essere stata ospite della trasmissione Agora in Onda, ringrazio Francesco che ci ha accompagnato nella puntata odierna, daremo appuntamento ai radioascoltatori per venerdì prossimo in cui parleremo di un altro importante argomento che è quello legato all'igiene e alla salubrità degli alimenti, lo faremo in studio con una specialista e quindi vi do appuntamento alla prossima settimana. Io Francesco ti lascio la parola per i saluti finali. Grazie mille Marco e soprattutto grazie mille alla dottoressa Lucia Fusco per essere intervenuta in diretta, ci sarebbero in realtà tante altre cose di cui parlare però purtroppo il tempo è tiranno, quindi vi ringrazio e ovviamente appuntamento rimandato alla prossima puntata di Agora in Onda. Per quanto mi riguarda oggi è tutto, vi lascio in compagnia di Marcella fino alle 14 e noi ci risentiamo lunedì.